Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Come stai, chef? Oggi siamo in casa tua, ma mi fa piacere perché, come ben sai, io sto bene in questa regione. No, prima mi dicevi un po' di nomi milanesi, della tipo Cassera, sì. Pêcheur. Ma non è Cassera, è Cassera. Pêcheur, anche l'ultimo che hai imparato. Pensa, c'è già Bertolino. Buongiorno Bertolino, come sta? Allora, allegra banda di Grattacù, come va? Grattacù però Enrico, non capisco, Grattacù si capisce. Guarda che il Grattacù è una bacca, è una bacca che cresce nel pavese. È vero. Certo, però... cosa che pensavi tu? Cosa no, fosse? Niente, no, la classica bacca. Okay, è un titolo, poi non spieghiamo per l'origine del nome, però si capisce che è anche un prodotto. La puoi declinare? Un prodotto, no, ma fra l'altro molto buono, insomma, mi dia due etti di Grattacchio. E invece il pêche, che cos'è il pêche? È un pesce, no? Pier mi diceva, mi ha preso in giro perché pensavo che il pêche fosse un pesce di lago, è vero? No, non confondere con i pesip che sono i carpionati, giusto, il pesputana qualcuno dice che si chiama, basta col cui... allora no, il pesce sono i piedini di maiale, esatto. Cartilaginosi che servono per un po' di preparazione milanese, tra cui la cassuera, tra queste qualcuno li mette, qualcun altro no. Perché tu dici cassuera e invece tutto no, una ricetta vegana, Enrico, tu devi sapere che c'è una scommessa con Pierre, che nel giorno in cui lui dirà cassuera nel modo corretto, lui avrà da me un invito esagerato ovunque lui voglia, io pagherò. Beh, stai attento perché guarda che lui si impegna, Luigi lo conosco, per un invito esagerato. Certo. Comincio tutto il giorno a fare cassuera. Esame come fece Rodaldo su Bitter, no? Bitter. Senti, prima o poi lo dirò giusto. Senti, Enrico, tu sei tantissime cose, no? Sei tantissime cose. Tanto e niente, cioè io sono un ingrediente misto, cioè né carne né pesce, come direbbero i vegani oggi, ma sempre presente sulla tavola. Sempre presente sulla tavola. Le tue passioni alimentari, i tuoi ricordi di l'infanzia. L'Inter, l'unica mia passione alimentare, se da mangiare. Quella è alimentare, invece alimentare io sono vivo dei piatti del ricordo, del buon ricordo, no? Oltre esistevano nei ristoranti quei piatti che te li dicevano, te li regalavano. Enrico, ci li ricordiamo, mi sa solo io e te queste cose. Io mi ricordo la di Moret a Udine, faccio. Sai che ogni ristorante, questa storia dei piatti del buon ricordo era una gran bella cosa, perché tu andavi nei ristoranti, mangiavi il piatto, la specialità della casa, e venivi via con questo piatto decorato a mano, molto decorato bello. Bene a mano, molto bello, che ne fanno ancora da Gio Maiori, nella zona del molto molto belli quelli fatti sulle ceramiche, però il piatto, ecco, il piatto è quello che mi faceva la mia mamma, che ci faceva la domenica, noi ci mangiava la lasagna fatta bene, si mangiavano le cose semplici, si mangiava la pasta gratinata, si facevano i gnocchi e ripassavamo sulla grattugia per dargli la forma. E poi c'è la più grande incongruenza della cucina, a mio avviso, era il vitello tonnato. Perché? Il vitello, cioè un vitello e un tonno non si possono mai incontrare nel mondo. Invece sono incontrati. Invece nel piatto riesce questa cosa che nel mondo non riesce. Un vitello e un tonno quando li vedi insieme? Esatto, niente, no, esatto. Giusto se, non so, un vitello che si tuffa. Adesso... ma sarebbe un po' come Mourinho e Nedved, non li puoi vedere insieme, capisci? Bisogna capire chi è il vitello e chi è il tonno, e non lo so. Non andiamo oltre. Esatto, grazie. Qualsiasi cosa si dice, sai che la gente è pazzesca. Sì, lo so. Quindi, di querela, grande rispetto per Mu, per Nedved, per il tonno e per il vitello. Tutti amici. No, ragazzi, scusate, non si può più parlare di pesce tra sardine, tonni, non possiamo più parlare. Parliamone. Per esempio, il pesce in Lombardia c'è, perché la Lombardia non è una regione di mare, però c'è anche il pesce. Allora, devo dire due cose sulla Lombardia e il pesce. Allora, naturalmente quello di lago, quello se questa di acqua di dolce, lago fosse acqua di mare, quindi poi metteremo la canzone. Quanti pesci già scelta, potrei già cucinare stasera? No, quindi abbiamo parecchie qualità, e direi anche in quantità, di pesce di lago, per cui acqua dolce è un pesce con una carne che ha un profumo diverso da quello di mare. E poi abbiamo un grande mercato del pesce a Milano, certo, dove viene tanta pesca dei nostri mari, del Mediterraneo, insomma, del Mar Ligure. È vera, eccetera, questa cosa che a Milano si mangia il miglior pesce d'Italia, o è una cosa che avete inventato voi milanesi per tirarvela e farci lotticare forse, a noi che non siamo milanesi? Forse sì, però il miglior pesce è solo quello fresco, per cui che lo mangi fresco appena pescato in Sicilia o appena arrivato a Milano nella notte, voglio dire, il concetto è la freschezza. È vero che il mercato del pesce di Milano fornisce tanti ristoranti, per cui una città così importante come Milano deve avere un prodotto fresco, anche perché negli ultimi 30 anni, io quando iniziai a lavorare da Marchesi, da Gualtiero Marchesi, c'era un ristorante giapponese, adesso vediamo che ci sono dal cinese al giapponese al vietnamita, quindi abbiamo incluso tutte queste tipologie di ristorazione che includono naturalmente il pesce. Senti, non tutti sanno che Enrico Bertolino, oltre a essere un presentatore, un cabarettista, un attore, insomma un amico eccetera, un paraculo, quello sono io, ha preso la laurea in sei un bocconiano, no? Poi hai lavorato, nel business, no, del marketing. Raccontaci come ti hanno preso in Inghilterra nella banca dove hai fatto la richiesta per poter lavorare. Ho fatto una domanda per una banca inglese in Italia, cioè quando ho finito il servizio militare, perché poi ho fatto un diploma di laurea successivo, ho cercato di fare una domanda in sette banche dove mi piaceva la hall della banca, cioè c'era l'ufficio, perché a me, io volevo andare a lavorare in un posto bello, che fosse in centro e che fosse bello, perché ho fatto la domanda dove era bello l'ufficio. Certo. L'unica che mi ha risposto era una banca inglese. Ho fatto un colloquio dove avevo rispolverato tutta la mia computisteria, ragioneria, tutte le mie nozioni, e questi mi hanno chiesto invece, la domanda era: do you play football? Se giocavo a calcio. E io ho detto sì, gioco a calcio, e in which role, quale ruolo? Cioè, dove vuole lei, santità? Ho detto questo, io gioco anche in porta. E mi hanno fatto, il mio colloquio di lavoro è stata la partita con la Banque Paribas, dove abbiamo pareggiato 0-0 nel glorioso stadio alla Bicocca di Milano. E lì mi hanno detto sì, questo lo teniamo perché è un buon mediano. Senti, ma invece comunque la persona che ha una formazione aziendale, il fenomeno cibo degli ultimi anni, insomma, ha preso dei contorni, c'è stato l'Expo ovviamente, cioè sì, culturalmente e anche mass mediologicamente, uso questa parola terribile, è cambiato tutto, no? Ma è cambiato molto, perché il cibo non è diventato più un nutrimento, cioè prima si viveva per mangiare, si mangiava per vivere, adesso si vive per mangiare, e questa cosa è notevole, cioè, e va da tutto, cioè dal cibo etnico al cibo, a me piace per la cultura del cibo perché ti permette di conoscere le nazioni, ad esempio in questo periodo qua bisogna superare questa grande soglia di diffidenza e riproporsi al ristorante cinese. Ed è una cosa che va fatta sì, perché la soglia di diffidenza, cioè, io lo dico perché la maggior parte dei ristoranti cinesi non compra il cibo in Cina, lo compra in Italia e lo fa bene e lo cucina bene, ce ne sono alcuni anche di grandissima levatura. Poi io ti dico, la mia origine familiare è brasiliana, la churrascaria è un posto da visitare una volta nella vita, per cui bisogna cambiare la cultura del cibo, è apre le frontiere, cosa, uno non viaggia, si siede a tavola e viaggia, apre le frontiere e riporta anche all'infanzia, perché poi come tutte le cose, diciamo, importanti della vita, riporta alle ricette della nonna, no, ai pranzi la domenica col papà, con la faccia, quindi che erano fatti dall'antipasto, primo, secondo, dolce, frutta, matta, caffè. Senti, una ricetta tua... Aspetta, fermiamoci un attimo perché c'è il traffico. Sei interessato al traffico, Bertolino? Guarda, mi sposto un attimo. Spostati, traffico. Mangia come parli. Allora Davide, cosa stavi chiedendo? No, stavo chiedendo una ricetta, un ricordo della sua infanzia, di una ricetta milanese, magari anche con un nome milanese. La cutoletta. Sì, guarda, è il risotto con tiosbus. Traduco, sta parlando del risotto con l'osso buco. Sì, fa la traduzione in questo momento. Simultaneo. Dicendo. Sì. Risotto con l'osbus, anticipato se vuoi star poi male e vedere i draghi nel pomeriggio, anche da dei nervit cuscigui, metti con le cipolle. È un po' come la puntarella romana, no? Che ti viene servita apparentemente semplice, però poi ti arriva con dentro l'acciuga, con il tasso di digeribilità del nervetto insieme all'osso buco valuta 28 luglio. Tra l'altro posso darvi una notizia clamorosa: oggi, per un unico giorno dell'anno, io ho un po' di, insomma, quindi oggi il programma sul cibo lo vivo un po' in maniera più laica. Non sei stato bene? Insomma, c'è un po' di pesantezza oggi, ma adesso sono dettagli che non vorrei dare a tutta Italia. Niente, così, e quindi insomma adesso tutti questi piatti leggeri, ma invece i mondeghili, vogliamo parlare, è un grande il mondeghili. Mondeghili della storia della mia famiglia erano sempre dei, sono sempre stati delle polpestate, delle polpette però fatte. Non ridere, Claudia. Allora, polpette fatte con le polpette, si dice le polpette. e dice è polpetta. No, è fatta con della carne cotta, non cruda, quindi non un semplice hamburger, con carne trita, messa rimpicciolita, fonda, forma tondeggiante, in padella, eccetera. No, è fatta con carne cotta che viene tritata, poi c'è un po' di pane bagnato nel latte, un po' di noce moscata, un po' di uovo, poi la bulogna, chiamano a Milano, sì, cioè la mortadella, sì, sì, ok, pezzettini di mortadella, tutto frullato e poi viene passato nel pane, questa piccola polpetta, e poi fritta, anzi non fritta ma arrostita nella padella, quindi non totalmente immersa nell'olio ma arrostita. Senti, negli ultimi anni hai fatto tante cose legate al, insomma, anche in qualche modo alla politica, insomma ci hai aiutato anche a riderne un po', no? A ridere un po' sulla politica, hai fatto anche una guida comica allo sfruttamento della Costituzione. Ti chiedo, il cibo e il made in Italy soprattutto nella Costituzione italiana quanto pesa? Parecchio, credo, no? Perché è una delle cose, delle forme di eccellenza più indiscutibili del nostro paese. Beh, direi che andrebbe messo all'articolo 2, l'Italia è una repubblica fondata sulla tavola. La prima è sul lavoro, poi alla tavola è fondamentale, alla tavola si raggiunge molto. Pensa che abbiamo scoperto nello spettacolo che stiamo facendo oggi che Leonardo da Vinci ha fatto anche un galateo, oltre ad aver inventato il cavatappi, che se tu lo guardi è l'uomo vitruviano. Leonardo ha inventato il frullatore, il macinapepe, lo schiacciaglio, lo schiaccianoci, e in più ha fatto un galateo che a teatro stiamo recitando, Galateo di Leonardo da Vinci, fatto molto prima di quello di Monsignore della Casa, dove diceva che a tavola ad esempio non bisogna tramare e che è vietato mettersi dei pezzi di cibo nella borsa e negli stivali per poi mangiarseli dopo. Bertolino, noi l'abbracciamo, la salutiamo, lei è in teatro in questo periodo, che sta facendo? Dove la vogliamo? Sto facendo l'istantia perché siamo a Circo Minimo, sulle bellezze di questo paese, sul fatto che apparentemente non ce la faremo mai, ma ogni volta ce la facciamo. Ecco, oggi è il 15 febbraio, le prossime tappe di questa seconda. Siamo in giro a Varese, siamo stati ieri sera e oggi siamo in giro ulteriormente. Io ormai giro quotidianamente in tutti i teatri del centro nord, presto anche al centro sud, e spero di non far mancare niente a nessuno. Vabbè, a Roma venga a vederti. Grazie Bertolino, grazie a voi, Gianluigi. Ciao. Allora, grazie. Frittella di Bitto con grano saraceno e aceto di mela. Vuoi leggerla, vuoi dirla, avete l'ho preparata? Sono quelli che sono chiamati poi sciat. Sciat sono valtellinesi, no? Esatto, quindi incrociamo bene la cucina lombarda con 140 grammi di farina di grano saraceno, 70 grammi di farina integrale di grano duro macinata fine, 20 grammi di albume d'uovo, 2 centilitri di grappa di moscato, 1 grammo di lievito di birra, quindi pochissimo, 3 centilitri di acqua tiepida. Impastiamo il tutto energicamente, poi la cosa importante è la lievitazione, per cui mettiamo solo 1 grammo di lievito, lasciamo riposare per un paio d'ore, dopodiché rompiamo la lievitazione e cominciamo ad utilizzarli. Prepariamo a parte 16 cubi da 2 cm l'uno di formaggio Bitto, ok, di qualità levata, privata dalla crosta. Intingiamo con l'aiuto di uno stuzzicadente questi cubetti di Bitto nella nostra pastella. Cosa facciamo? Abbiamo preparato a parte, ascolta bene, anziché utilizzare un olio usiamo un burro di cacao. Naturalmente l'opzione olio di semi di girasole può andare benissimo se non trovassimo il burro, certo, di cacao. Però il burro di cacao direi che è una novità, per cui un burro vegetale tiene le alte temperature, quindi a 165 gradi immergiamo i nostri sciat e li cuciniamo per 3-4 minuti. Doratura totale all'esterno e naturalmente morbido, questa sensazione di libidine del formaggio che si scioglie, e lo serviamo naturalmente quando noi abbiamo un fritto, mettiamo sempre una parte di acidità. Quindi 3 decilitri di aceto di mela, lo riduciamo di 2/3 a fuoco molto basso, con 50 grammi di miele di acacia, 2 grammi di buccia di limone che aggiungeremo naturalmente una volta che avremo ridotto e ottenuto uno sciroppo. Adageremo le nostre frittelle, le 4 piccole frittelle nelle fondine che avremo già predisposto nella nostra cucina, e cosa fare d'altro? Serviremo con alcune foglie di sedano bianco che sono croccanti, profumate, fresche sopra queste frittelle, e poi un po' di questo gastrica, di questo aceto ridotto che dà acidità e contrasto col fritto. Senti, ma una grappa ce la facciamo? Una grappa ce la facciamo con molto piacere, anche perché la grappa ha tanto da dire. Abbiamo nostro ospite. Assolutamente, Antonella Nonnino, che è AD, responsabile comunicazione istituzionale della Nonnino Distillatori. Come va? Come ciao, va? Antonella. Come stanno i distillati? Carissimo, siamo molto felici, appena rientrati dagli Stati Uniti, dove abbiamo ricevuto questo bellissimo riconoscimento, migliore distilleria dell'anno e spirito, quindi la prima volta che la grappa viene premiata a livello proprio internazionale, quindi siamo molto contente. E la grappa quindi tutte le battaglie fatte dalla mamma, tutte queste cose, vedi che piano piano tornano, vedi, io ho sempre una stima incredibile per questa famiglia. Grazie di cuore. Ma la versatilità della grappa, visto che stiamo andando nella parte di abbinamento col cibo, e un abbinamento di grappa fatta a cocktail, un cocktail nuovo che state lanciando voi. Ma noi siamo innamorati del Nonnino Sour, sì, che è semplicissimo da fare perché è molto fresco, con zucchero di canna, con del limone fresco, la grappa Nonnino bianca, e shakerata con un po' di ghiaccio e un pizzico, cioè un tocco proprio di albume. Oppure, favoloso, è italiano questo cocktail che sta avendo grande successo a Londra con i nostri amici Monica Berg e Alex Cratena, lei peraltro appena stata nominata come migliore bartender del mondo, quindi veramente una donna fantastica che ha creato questo nuovo bar dove sperimentazione fa con la grappa appunto Nonnino, monovitigno moscato, ecco, qualche cosa di leggermente, cioè una grappa leggermente fruttata, che in questa combinazione con del ginger ale e ovviamente il tocco della grande Barlady dà un risultato favoloso, che si può abbinare, infatti ci ha detto che è un cocktail che piace trasversalmente, ce lo puoi bere anche proprio come long drink durante la giornata, come rinfrescante, ovviamente sempre responsabilmente. Quindi questa cosa, l'evoluzione della grappa negli ultimi 20 anni, ad esempio, il rapporto fra bianche e in barrique. Allora, le grappe in barrique sono meravigliose, noi peraltro facciamo un invecchiamento naturale solo in piccola botte, in punto in barrique, e vanno degustate soprattutto in purezza, perché questo sentore di pasticceria leggermente speziato, di cioccolato è favoloso, e quindi desideri di solito abbinarlo ad un bel piatto gustoso, ad un dolce, ma anche alla fine del pasto, proprio certo, da meditazione. Le grappe bianche sono favolose nella mixologia, come vi dicevo, la nostra grappa tradizione, perché quando la grappa è distillata, noi distilliamo con metodo artigianale, quindi c'è tutta la freschezza dell'uva, il profumo dell'uva, l'eleganza, che è shakerata quindi con qualche altro ingrediente, può essere il ginger ale, può essere appunto un po' di limone fresco, rende il cocktail perfetto da abbinare come addirittura aperitivo, oppure con qualche piatto di a me viene in mente un piatto di pesce crudo. Assolutamente. Senti, ci fermiamo un attimo, ma ripartiamo da qui, poi io penso che dopo la gubana, tu sai cos'è la gubana? Direi di sì. Perché siamo in Friuli. Ecco, la gubana, che è un dolce classico, tradizionale, una roba da meditazione, perché è bello meditare. Adesso meditiamo con, cioè, una pausa, meditiamo. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, siamo con Antonella Nonnino, AD, responsabile comunicazione istituzionale Nonnino Distillatori. Stavo chiedendo, le grappe, le annate delle grappe importanti, o le ultime uscite, o quelle che usciranno magari quest'anno, avete delle nuove, tra virgolette, ricette, delle nuove proposte? Beh, ci sono delle delle chicche, perché appunto questa straordinaria riserva di 29 anni di invecchiamento che la mamma ha voluto estrarre dalla cantina proprio per festeggiare i suoi 80 anni dedicati proprio alla grappa in tutti questi, in tutta la sua vita praticamente, e la grappa riserva 25. Ci tengo anche a sottolineare che quello che è importante è che quello che è dichiarato in etichetta e poi viene anche comprovato da tutte le dichiarazioni, ecco, questo invito a fare sempre attenzione alla lettura delle etichette, oltre ad assaggiare con attenzione e in meditazione, se vogliamo, questi straordinari ricetti. Facciamo una cosa, visto che nella seconda ricetta c'è dedicata, la grappa, assolutamente. L'hai dedicata alla grappa. Chiaro, sai che per me oramai è diventato un ingrediente che deve far parte della cucina. Per cui, riso, erborin, datteri e grappa. Erburin in dialetto milanese è il burino. No, non è. No, lo so che non è il burino. È il prezzemolo, il prezzemolo. Vedi come i pescioni che ha beccato il fallo. Capito, oggi è un inferno, c'ho pure mal di stomaco. Allora riso e burin. Facciamo tostare, allora, in una pentola a secco facciamo tostare un riso, 240 grammi più o meno di riso basmati, che per me milanese, sono di solito un carnaroli, utilizzo un basmati. Quasi una bestemmia. Ok, diciamo, perché do due tipologie di cottura. Aspetta, li vedo dalla provincia di Pavia, di Vercelli e di Novara, stanno partendo a gruppi per malmenarti. Certo. Poi questo riso, di solito tu con cosa bagni il riso? Dillo, dai, non puoi, dopo tre anni di mangia, con cosa bagni? Quando tu hai tostato il riso, bagni con il vino, giusto? Certo, sfumo. Allora, non è che sfumi, sì sfumi, però bagni col riso, va bene? Bagno, allora, in questo caso, con il riso basmati, metto 2 decilitri di grappa, facciamo scegliere ad Antonella la grappa che ci vorrebbe dedicare con un riso prezzemolo e datteri. Cosa possiamo mettere? Ma io andrei con la grappa invecchiata, penserei a uno Chardonnay in barrique, che perfetto, è delicata allo stesso tempo elegante. Sì, basta che ne rimanga un po', facciamo evaporare, ok? Per cui insaporiamo non bene. Non buttarla tutta nel riso, che no, dopo. Però sai, grandi piatti sono abbinati a grandi vini nella cucina. Che quantità mettiamo? No, 2 decilitri, dicevo. Okay. Facciamo evaporare, intensificare il profumo, copriamo il nostro riso con 1 decilitro di acqua calda che abbiamo fatto bollire a parte, cuociamo per circa 12 minuti. Lasciamo, naturalmente, spegniamo il fuoco, lasciamo riposare. Cosa facciamo? Prepariamo a parte il nostro prezzemolo, quindi avremo preparato precedentemente il nostro prezzemolo piatto, tagliato, tritato finemente, non lavato quando è tritato, ma lavate le foglie e poi asciugate per bene, naturalmente, prima di tritarle, circa 20 grammi, aggiungiamo questo prezzemolo che dà freschezza al nostro riso, e poi con una forbice ben affilata tagliamo dei datteri a piccoli cubetti che danno quella dolcezza e quella consistenza morbida di cui questo riso ha bisogno. Nel caso volessimo trasformarlo in un risotto, anche un basmati potrebbe andare bene, aggiungeremmo del burro a crudo fuori dal fuoco in maniera tale di ottenere quella famosa mantecatura milanese. Che però dice Antonella? Bene, prezzemolo, mi pare, no? Che grappa. Mi pare una meraviglia, che già me lo assaggio con un po' di... Io abbinerei addirittura un goccio di grappa monovitigno Chardonnay in barrique, che è una meraviglia. Tra l'altro, dopo perché è delicato, secondo me va addirittura a esaltare il sapore, perché penso appunto ai datteri e penso al riso che è stato appunto bagnato alla freschezza del prezzemolo, in questo caso molto importante. Magari facciamo un antipasto con frigo e San Daniele, se sei d'accordo, poi prendiamo il riso e basta. Il San Daniele, perdonate, però non posso non dirlo, resta la grappa leggendaria, la grappa crum novitigno piccolic nonino, perfetta, con San Daniele e un po' di mostarda di fichi. Hai capito? È semplice, però è meravigliosa. Io la mostarda di fichi tendo a non prenderla perché i miei simili, va bene. Scusa, ti chiedo perdono, Antonella. A presto, grazie. Mi raccomando. Ciao. Vai, Spazio News, mi raccomando. Vai, Spazio News. Hai cominciato. Allora, partiamo dall'area biologica nell'Unione Europea. E ci sono buone notizie perché cresce del 34%. La seconda buona notizia è che l'Italia è nettamente al di sopra della media europea. La media europea è del 7,5%, noi siamo oltre al doppio, quindi siamo al 15,2% fra gli stati membri dell'Unione Europea. I paesi con le maggiori quote di superficie biologica nel 2018 sono l'Austria, l'Estonia, la Svezia. L'Austria addirittura sfiora il 25%, e in altri paesi invece percentuali bassissime: Regno Unito, Irlanda, Bulgaria, Malta, Romania sono i paesi con meno percentuale. Poi il caviale, Italia leader in Europa, ne abbiamo parlato per un paio di anni fa di questi progetti di esportazione del caviale all'italiana. Bene, l'85% della produzione è all'export. Le quantità si attestano sulle 53 tonnellate l'anno, la trota è il pesce più venduto, è seguita dalla spigola e dall'orata, made in Italy soltanto il 15% del fabbisogno, vuol dire che su 100 kg di prodotto 85 vengono esportati e 15 vengono consumati dal mercato interno. Il valore, sappiamo, insomma, il prezzo è importante, va dai 400 euro ai 2000 euro al chilo, il giro d'affari molto importante che supera i 25 milioni di euro. Quindi è una Qual è il tuo preferito? A setra, ma beluga. Perché mi fai? Hai sentito che mi ha suggerito, ma non ne ho preferito. Io non posso dire, non sono caviale, un, no? Sì, ma non sono un clamoroso cavialista. Cioè, a differenza del tartufo, dove il prezzo, insomma, del prodotto, secondo me, vale ampiamente la pena. Il caviale mi piace, ma insomma, la non ci vado. La consistenza dell'uovo. Comunque, sai qual è il mio preferito? Il colore a setra. Tu hai detto a setra, io non so neanche cosa sia la setra. È una qualità molto alta. Molto alta, ha la caratteristica della pallina media, della pallina grigia, per cui poi la bontà del caviale lo scopri quando ce l'hai nel palato e tra la bocca, e ti esplode la lingua, e ti esplode questo il tuo palato la scopri. Questo sicuramente, no, ma io lo trovo assolutamente un prodotto importante. Fra l'altro, i numeri del nostro export italiano sono molto positivi. È una nicchia, però è una nicchia di grande livello, di grande posizionamento, con un'altissima profittabilità, per cui un prodotto molto molto interessante. Poi arriva la guida delle 100 eccellenze italiane 2020, realizzato da So Wine So Food in collaborazione con Forbes Italia. È stato presentato il 27 gennaio al Maxi, che per chi non lo sapesse è il Museo Nazionale delle Arti di Roma, quartiere Flaminio, un posto meraviglioso. Fra l'altro l'Italian Ambassador è un certo Davide Uldani che hai fatto? Hai rappresentato le 100 storie? No, faccio parte di queste 100 storie italiane nell'artigianato, cioè la manualità in questo caso, perché con queste 100 eccellenze erano indicate da prodotti, per cui mi fa piacere far parte di questo team di eccellenza nella manualità. E noi abbiamo Stefano Cocco, che è critico gastronomico per Forbes Italia, editore della rivista online So Wine So Food, e poi insomma ha creato il format L'Uomo delle Stelle, che è un reportage gastronomico che è pubblicato sul blog della rivista, con tutti i ristoranti europei che hanno le famose 3 stelle Michelin. Ciao Stefano, come stai? Ciao Stefano, buongiorno. Salve a tutti, benissimo. Tutto a posto, come è stata questa serata al Maxi? E soprattutto, insomma, la ricerca dell'eccellenza non si ferma mai, no? In Italia e nel mondo è la conquista delle stelle in senso figurato ma anche reale, no? La ricerca sempre di nuovi livelli di eccellenza. Beh, ma noi in Italia siamo molto fortunati, perché di eccellenze ne abbiamo tantissime. Magari fossero solo 100, ce ne sono migliaia e migliaia. Noi ogni anno con gli amici di Forza ne scegliamo 100, quest'anno ne abbiamo scelte 100 perché abbiamo la possibilità così di visionarle, di andarci, di parlare con i produttori piuttosto che con i ristoratori. E Davide ne sa qualcosa, chiaramente, e quindi abbiamo la possibilità di capire se sono veramente eccellenze o meno. Ma ripeto, in Italia è molto semplice. Parlavate prima del caviale, ecco, quella è una delle nostre eccellenze che abbiamo peraltro rappresentato anche nella nostra guida, più che guida poi è una selezione che abbiamo presentato il 27 al Maxi. Ecco, questo è importante, è una selezione di prodotti e di eccellenze che rappresentano l'Italia. Quindi il prossimo progetto su queste eccellenze come si sviluppa per l'anno prossimo? Allora, l'anno prossimo innanzitutto noi faremo un percorso di videomaker in tutte queste eccellenze che sono racchiuse nella nostra guida di quest'anno, nella nostra selezione di quest'anno, quindi andremo uno per uno e poi verranno trasmesse sul canale Forbes di Sky. Poi per l'anno prossimo facciamo un'attenta selezione, come abbiamo fatto già quest'anno, noi e gli amici di Forbes, provando altre centinaia di eccellenze, scegliendone 100 come facciamo ogni anno. L'anno prossimo faremo un'altra bella serata come è stata quella in cui sei stato presente anche tu, Davide, come ambassador, e la faremo a Milano questa volta, così insomma giriamo tutta l'Italia e portiamo le eccellenze in giro. Che bello. Invece le ultime novità, tu viaggi molto, Stefano, alla scoperta e alla ricerca di nuovi talenti, nuovi ristoranti, nuovi prodotti. L'ultimo ristorante che hai fatto e che ti ha colpito per quello che è l'innovazione, sempre capendo bene cos'è l'innovazione in cucina al giorno d'oggi, dov'è, in quale parte del mondo è? Allora, uno che mi ha colpito moltissimo si chiama Vespertin e sta a Los Angeles. è anche in un palazzo particolare perché è una zona residenziale, quindi non sembra nemmeno che sia un ristorante. Al terzo piano di un palazzo normalissimo ci sono due piani di questo ristorante Vesperkin. Loro sono dei ragazzi molto giovani e hanno già 2 stelle Michelin e secondo me prestissimo ne otterranno una terza. E la cosa bellissima è che alle 16.30, orario in cui sono arrivato io, era completamente pieno di gente, di posti totalmente prenotati, e i piatti che loro propongono hanno un effetto visivo fondamentale, bellissimo, stupendi, meravigliosi, e sai benissimo Davide che l'effetto visivo è già un 50% di quello che poi andrai a mangiare, e un'esaltazione del gusto incredibile, nonostante si trovino in una zona come Los Angeles che fino a poco tempo fa era bistrattata sotto questo punto di vista. Grazie. Grazie Stefano. Ci fermiamo per un attimo, fra poco essere soldati, abbiamo ancora 2 ricette, di tutto di... Questo è il City SUVA Volkswagen T-Cross, ma non è solo T-Cross, è T-Cross! E anche T-Cross o T-Cross, ma anche T-Cross e poi T-Cross e T-Cross e T-Cross. Perché scegliere un'auto se puoi averne tante? T-Cross, more than one thing. Solo a febbraio, tua con Tech Pack di serie da 17.900 euro anche domenica e su Volkswagen.it. Mangia come parli, mangia come parli. Poi pensavo che, insomma, essendo la Lombardia una regione molto vasta, anche dal punto di vista gastronomico, meno gastronomico, ci sono tante differenze, perché c'è la centralità di Milano, che però come tutte le città, no, un po' cosmopolita, è ovvio che ha tantissime influenze. Penso alla cucina di terra, per esempio del Mantovano, Bresciano, il tortello di zucca, il tortello alle erbette, la cucina quindi di terra di quei luoghi lì, c'è la cucina di montagna della Valtellina e non solo. No, c'è una grande opportunità anche di prodotti, adesso più certo. Che ricette, cioè, il noi riso, parleremo più tardi anche tutto al lato occidentale, no? Ma certo che sì, parleremo più tardi anche di un mais morado nell'ultima ricetta, che è un mais sudamericano trapiantato nel bergamasco. Sembrava un centrocampista, io, mais morado, esatto, un giocatore. Abbiamo comprato però mais morado è questo mais scuro, viola, violaceo, che ha un'intensità di profumo che è molto buona, per cui è sì un seme che arriva da Sud America però trapiantato qui, per cui tanti prodotti e tanta qualità. Chissà cosa ne pensa Antonella Bondi, produttrice di fragranze alimentari e aromi naturali. Come stai? Oggi è il giorno delle Antonelle. Tante no. Oggi è il giorno delle Antonelle, perfetto, buona giornata a tutti. Allora, io nella prossima ricetta utilizzerò l'essenza di sempre. Una tua spiegazione veloce tra quelle di laboratorio e le essenze naturali, come faccio a riconoscerle, come faccio a utilizzarle? Allora, l'essenza di laboratorio è sintetica e si percepisce perché è molto piccante e è un piccante che senti che non è naturale, tant'è vero che i francesi la chiamano mustard oil o senape artificiale. Quella naturale che viene estratta dai semi, che sono in questo piccolo frutto giallo della pianta di senape, sono sì piccanti ma hanno un retrogusto anche dolce e lo percepisci proprio al gusto. Subito, oltre certo. Che lo spray. Certo. Quella che tu quella che io utilizzo in questa ricetta, io direi facciamo la ricetta, facciamo intanto la ricetta. Antonella l'ascolta. Composta e poi... di corniole con essenza di senape. Già, allora, credo che sia una ricetta corniole, l'albero dal quale deriva il nome del paese di Cornaredo, tu sai dove io abito. Certo. Per cui 500 grammi di corniole pulite, lavate, denocciolate e cotte con 2,5 decilitri di acqua per un'ora. Una volta che le abbiamo scolate, le frulliamo, le passiamo a setaccio a maglia fine, le mettiamo questa purea di corniole in un padellino, in un pentolino piccolo, con 150 g di miele di cardo. Aggiungiamo alla purea di corniole appunto un goccino di acqua, la cuociamo per una decina di minuti per far incorporare il tutto in maniera tale che rimanga, che tenga una densità spalmabile. Per la finitura, nel caso noi volessimo servire questa composta di corniole con un piatto di carne, possiamo aggiungere 2 gocce di essenza naturale di senape per dare quel gusto della mostarda classica che noi tutti conosciamo. Per cui è un abbinamento che, levando le gocce di senape, possiamo utilizzarlo nella pasticceria. Azzardando un po' di più con questa essenza molto intensa e leggermente piccante, possiamo abbinarla a dei piatti di carne, al tipico bollito. se me la confermi, io insomma, sono felice. È fantastica, sì, certo. Voglia. Un'essenza nuova che stai lanciando, e poi ti lasciamo il tuo sabato mattina. L'ultima idea: rosa e fiori di arancio. Rosa e fiori di arancio. Rosa e fiori di arancio, quindi pronti per la primavera? Ci siamo fra un po'. Sì, oggi è una bellissima giornata di sole, un po' ventosa, quindi andiamo per la primavera. Perfetto, perfetto. Io sono già pronto pure per l'estate, pensa questo. Grazie, grazie Antonella. Antonella. Grazie, grazie di cuore, SOS Oldani, via, via. SOS Oldani. Andrea da Terralba. Ciao chef, io il miele l'ho sempre abbinato ai formaggi, ma c'è un altro alimento salato a cui posso accostarlo? Sì, assolutamente sì, formaggio, direi anche delle carni, perché prima poco fa parlavamo di bollito e sicuramente un buon miele, quello di cardo che ho utilizzato, andrebbe benissimo per una carne. Thomas da Cesano Boscone. Ciao chef, c'è la differenza nel risultato se infarino un pezzo di carne con farina normale o con maizena? Direi la difficoltà assoluta per la farinosità della maizena è prima cosa, poi io non infarinerei una carne perché non è più una cucina classica dove ha bisogno di queste lunghe cotture, densità delle salse create dalla farina, ma solo di fondi fatti con una riduzione, magari un po' slegati, però di bontà assoluta. Vera da Grugliasco. Buongiorno chef, surgelando la melanzana cruda ho notato che la consistenza diventava spugnosa rispetto a quando surgelo altre verdure. È forse meglio congelarla da cucinata piuttosto che da cruda? Allora, mi sto leggero accento piemontese. Mi viene in mente la parmigiana, che potrebbe essere anche cucinata e poi messa in congelatore nella casa. Naturalmente nel mio settore, nel mio ristorante, non lo faccio. Però la cosa più importante è utilizzare la melanzana fresca, comprarla, utilizzarla e finirla subito. È la bontà assoluta. Assolutamente. Bertera, Maurizio Bertera, giornalista, esperto di gastronomia, amico. Come stai? Tutto bene, sempre un piacere sentirvi, ragazzi. Oggi siamo in Lombardia, quindi Oldani si sente a casa. Dai, un piatto della tua infanzia, lombardo milanese che sei. Guarda, obiettivamente la costoletta tutta la vita. Questa è una regione veramente molto vasta e con una quantità di specialità molto diverse, quindi fra una zona e l'altra, al punto che pur non essendo una regione di mare, anche il pesce ha una sua pienissima dignità e ci sono eccellenze anche da questo punto di vista, no? Beh, diciamo una cosa, che questo deriva, che è un aspetto fondamentale, dalle influenze che ci sono state. A partire che l'inizio della cucina lombarda si deve sostanzialmente alla cucina quella dei vari ducati, la cucina dei Gonzaga, per esempio, che è stata la prima cucina italiana di popolo e di corte, che era un'espressione che veniva usata a quei tempi, Cremona e Milano, che vorrei ricordare, Ludovico il Moro chiamò Leonardo da Vinci, fra le tante cose che gli fece organizzare furono dei banchetti clamorosi per l'epoca, con dei cibi originalissimi e anche delle attrezzature da cucina rivoluzionarie per l'epoca, perché Leonardo da Vinci è stato anche un uomo di cucina, fa le tante cose. Poi ovviamente gli spagnoli e successivamente gli austriaci hanno sicuramente contaminato, come si usa adesso, la nostra cucina, portando delle specialità, alcune le origini sono ancora in dubbio, ma per esempio le polpelle, i mondeghili sono chiaramente spagnoli. Sulla costoletta abbiamo costruito occhio questa... che scoppia una bomba qui, scoppia una bomba, io te lo dico, sui mondeghili spagnoli qui scoppia una bomba, guarda, io su questa cosa qua ho anche scritto più di una cosa andando a documentarmi. A loro volta gli spagnoli probabilmente si ispirarono per le loro polpette a una preparazione araba, ma i mondeghili sono sicuramente, ragazzi, spagnoli. Ma come tutto, abbiamo imparato una cosa nuova, tutto si consuma e tutto si combina, direbbe il maestro De Gregori, tutto si riapplica, si evolve, si rivisita, e quindi è una cosa assolutamente normale. Devo dire che è anche una forma di ricchezza, insomma. Poi sai come la penso io in generale su tutte le forme di contaminazione, insomma, secondo me è sempre comunque una forma di ricchezza, nel rispetto ovviamente del proprio punto di vista, della propria tradizione di partenza. Torta di mais, il mais morado, eccolo qua, vedi? Mais morado, centrocampista, allora, venezuelano, torta di mais morado, viola e farina integrale al profumo di rosmarino. Abbiamo già detto, mais morado trapiantato nel Bergamasco, nella Bergamasca, vedi? Per cui io ho il mio piccolo terreno dove abbiamo la produzione di mais morado. In questo caso prendo spunto da una torta di Como che si chiama Mia, che è un abbinamento tra rosmarino, giapponese, mela, no, no. Comasca, Allora, non farmi andare in tilt. Dai. Mela, rosmarino e farina gialla. In questo caso io uso un mais morado. 180 grammi di farina di mais morado, 200 grammi di farina integrale di grano tenero, 150 grammi di burro dolce, 140 grammi di zucchero moscovado, che è quello che piace tanto a noi, che ha un leggero profumo di liquirizia, 5 centilitri di vino bianco Lugana, 20 grammi di tuorli d'uovo, quindi un tuorlo d'uovo, e 20 grammi di uvetta sultanina. Misceliamo bene questi ingredienti senza impastare in maniera energica. Dopodiché, con i palmi della mano, li facciamo cadere a piccoli pezzettini in una tortiera imburrata precedentemente, magari con un po' di farina, e cuociamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Gli ultimi 5 minuti mettiamo degli aghi di rosmarino inseriti nella torta, in maniera tale che rilascino il profumo e non si brucino. Certo. Okay? Nella classica torta il rosmarino viene messo all'inizio, però il più delle volte, siccome esce dall'impasto, si rischia di bruciare e prendere l'amaro. E poi lo servo con una salsa semplicissima fatta con delle mele frullate cotte con un succo di arancio, con un rosmarino all'interno per far prendere più il profumo di rosmarino. Poi filtriamo il tutto e aggiustiamo naturalmente se necessita, con un pizzico anche di pepe nero macinato, e poi serviamo questa nostra salsa di arancio rosmarino con la miascia nuova. Che dici, Maurizio? Se la cava sto ragazzo, eh? Sì, soprattutto dire una cosa, c'è un tocco, secondo me, splendido, che per una torta lombarda della tradizione il vino bianco utilizzato è il miglior vino bianco Lugana. Lombardo. Ollani senza compromessi, come sempre. Sono d'accordo. Grazie, Maurizio. Lugana molto bene. Lugana molto bene. Va bene, ragazzi. Grazie, Maurizio. Grazie a Maurizio. Grazie al mio socio. Grazie al mio socio. Grazie a te, Pier. Vado a farmi un bel pesce. Faccio un bel pesce. Ho proprio voglia del maiale. Il famoso, che poi è il piede di porco, il piede di maiale. Sì, il piede di porco. Ma sai che si cucinava? Io ho imparato a cucinare al Gavroche da quando era 3 stelle, per cui cotto, disossato. Quante volte ci siamo visti al Gavroche? Nella retina di maiale arrostito. Mamma mia. Ci andrò un giorno. Un giorno vado al Gavroche. Ciao. Andiamo assieme. Ciao. Ciao. Buona settimana. Ciao.